Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci insieme, Obiettivo Salute con voi sino alle 11 in diretta con tanti esperti pronti a darci indicazioni, chiarimenti, suggerimenti per aiutarci a chiarire i nostri dubbi e per rispondere alle nostre domande. Facciamo squadra, distanti ma uniti e soprattutto mossi da, per l'appunto, un unico obiettivo: arrestare il contagio. Ce la possiamo fare? Tutti noi, e ormai ne abbiamo preso consapevolezza, possiamo contribuire a evitare il più possibile la diffusione del coronavirus. I comportamenti individuali giocano un ruolo essenziale, nessuno escluso. I numeri per intervenire in trasmissione: 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi e WhatsApp. Bene, in linea con noi apriamo subito con il professor Antonio Pesenti, che è direttore del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Urgenza del Policlinico di Milano e coordinatore dell'Unità di Crisi di Regione Lombardia per le terapie intensive. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Professore, lei è un po', me lo lasci dire, il simbolo di una sanità che resiste proprio strenuamente all'emergenza e reagisce con uno straordinario tempismo. Non molla. Ci vuole scattare, professore, un'istantanea della situazione? Certamente. Noi nelle terapie intensive abbiamo oggi della Lombardia, abbiamo oggi trattato circa 1000 pazienti. Di questi, la buona notizia è che il numero dei trasferiti dalle terapie intensive nei reparti a bassa intensità supera i 100. Mentre il numero sfortunato dei decessi è inferiore ai 100, quindi abbiamo più persone che guariamo di quelle che non riusciamo a guarire. Abbiamo fatto, la Regione Lombardia, tutti i nostri colleghi hanno fatto uno sforzo straordinario per alzare la capacità delle terapie intensive. Sì. Noi siamo partiti con 750 letti di terapia intensiva, oggi ne abbiamo più di 900, anzi 950 almeno. È uno sforzo straordinario, un lavoro di squadra. Io, professore, vorrei aggiungere anche un altro elemento positivo che arriva dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ieri, in un'intervista, il suo collega, dottor Lorini, che è direttore dell'unità di anestesia e rianimazione, ha dichiarato che dall'inizio dell'emergenza, giovedì, quindi ieri, per la prima volta a Bergamo hanno avuto un numero di pazienti inferiore a quelli che dimettono. Anche questo sicuramente, professor Pesenti, è un segnale di speranza. Ma certamente la possibilità di superare questa grande sfida, questa catastrofe, c'è sicuramente. Soprattutto bisogna che tutti capiscano che la malattia ha un rischio per la persona individuale piuttosto basso. Il problema della malattia è un problema di salute pubblica, perché sì, il numero di infetti è molto alto e quindi il numero di ricoveri e il numero finale di coloro che non sopravviveranno è pure alto, ma il rischio della persona individuale è modesto. La maggior parte dei malati resta malata 15 giorni e guarisce. Professor Pesenti, ogni esperienza insegna, anche questa così dolorosa lo sta facendo. Cosa possono imparare o vorrebbe imparassero le altre regioni dal caso Lombardia? E allargherei anche l'invito agli altri paesi. Il mondo ci guarda, professore. Bisogna imparare, prima di tutto, che queste malattie, queste epidemie, pandemie si ripetono ciclicamente e quindi bisogna essere preparati. Essere preparati vuol dire avere dei reparti già attrezzati, già disegnati per la possibilità di questi eventi. Ormai ogni 10 anni ce n'è uno, quindi quando costruiamo un ospedale, magari pensiamo di costruirlo in modo da avere dei percorsi precostituiti per zone infette, zone non infette. Quando ci sono le epidemie, non è importante avere un locale isolato, perché i malati hanno tutti la stessa malattia, quindi dobbiamo avere delle aree dove ci sono solo malati infetti e delle aree dove non ci sono i malati infetti. Dobbiamo avere delle zone cosiddette rosse, certo, e delle zone verdi. I nostri ospedali non sono costruiti così, naturalmente, perché sono almeno un secolo che non abbiamo... Sì, ci siamo concentrati, no? più sul trattamento e la prevenzione delle malattie croniche. Avevamo pensato che le malattie infettive non esistessero più. Ritornano. E invece le malattie infettive ci sono. Gli antibiotici non servono per le malattie virali, quindi anche il nostro armamentario di antibiotici è assolutamente inutile per le malattie virali. Stiamo sviluppando degli antivirali, per il momento antivirali efficaci ce ne pochi, e dobbiamo pensare che dobbiamo ristrutturare il nostro sistema sanitario anche per attrezzarci contro le malattie infettive. Una volta, no? 300 anni fa, avevamo i lazzaretti, avevamo i luoghi di quarantena. Oggi siamo molto più avanti, ma concettualmente dobbiamo pensare che le epidemie tornano. Le epidemie ritornano. Dobbiamo attrezzarci. Professore, grazie per essere... siamo in grado di curarle molto meglio, ovviamente, di una volta. Mi piace questa sottolineatura. Professore, grazie. Andrà bene. Arrivederla. Buona giornata. Grazie ai suoi ascoltatori. Grazie al professor Pesenti. Anche oggi spazio alle vostre domande. 349-238-6666. WhatsApp, SMS. Stanno già arrivando tantissimi. 800-24-0024 se volete far sentire la vostra voce. Pronta a rispondere alle vostre domande. La professoressa Paola 5. Professoressa, buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Grazie. Medico presso l'unità operativa di malattie infettive all'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, anche socia della CIMIT, che ci affianca in questo spazio della trasmissione per rispondere a tutte le vostre domande. Professoressa 5, ha sentito il professor Pesenti, la situazione è ancora molto seria, ma insomma noi siamo diventati anche più consapevoli rispetto solo a una settimana fa, no? Come a dire che le regole per evitare il contagio e quindi proteggere chi è più fragile, intanto ne approfittiamo per ripeterle, quindi niente mani su bocca, naso e occhi, la pulizia accurata delle superfici, le distanze di sicurezza, restare a casa, sono diventate proprio parte della nostra quotidianità, e questo, professoressa, lo chiedo a lei, potrebbe fare la differenza. Insomma, abbiamo fatto una svolta. Certo, l'impressione è proprio questa, che si sta diventando davvero ogni giorno più responsabile, e questo non potrebbe fare la differenza, farà la differenza se continuiamo così. Bisogna uscire quindi solo per le attività indispensabili, dobbiamo chiederci cosa è veramente indispensabile, cioè ciascuno di noi deve agire motivato da un grande senso di responsabilità, tenendo conto di tutte le indicazioni che ha appena ricordato, e questo è un approccio sicuramente efficace, lo ripeto, l'abbiamo ripetuto tante volte e in tanti, perché dobbiamo assolutamente ridurre il numero dei contagi, il numero dei casi in questa fase, perché non dobbiamo saturare il nostro sistema sanitario, che è vicino alla saturazione. Se noi riusciamo a diluire nel tempo questi casi, allora riusciamo a affrontarli nel modo giusto e corretto e salvare la maggior parte delle persone che avranno bisogno. Professoressa 5, c'è Maria Paola da Milano in linea. Buongiorno Maria Paola, benvenuta, grazie. Policlinico, sono molto coinvolta in questo momento. Sì. Senta, è una donna che aspetta un bambino. Sì. È necessaria in televisione a condurre una trasmissione? Ho concluso, non le dico cosa penso. Buona giornata e grazie. Beh, allora, professoressa 5, adesso che sia necessario o no in trasmissione, credo che sia più utile invece chiederle se ci sono delle evidenze, dei dati sul rischio eventuale in gravidanza, nella persona che nella donna in gravidanza, se risulta positiva al Covid-19. Ma diciamo che non c'è evidenza di trasmissione dell'infezione durante la gravidanza o al momento del parto. Ci sono stati tantissimi casi in Cina e anche in Italia ed è andato tutto bene, per cui diciamo che al momento possiamo lanciare questo segnale rassicurante. Ecco. A tra poco, dopo le informazioni sul traffico, stanno arrivando tantissimi messaggi e ad esempio le domande dei nostri ascoltatori a cui la professoressa 5 risponderà tra poco. Cellulari, soldi, tessera del bancomat, posso maneggiarli senza rischi o come? È utile rientrare a casa, fare gargarismi per pulire gola ed eventualmente fare i lavaggi nasali? Le mascherine preparate a casa con mezzi un po' di fortuna servono? A tra poco. Obiettivo salute. Eccoci qua che siamo tornati insieme alla professoressa Paola 5 per rispondere alle vostre domande. Batteria di domande, professoressa 5. Allora, mascherine, quelle costruite un po' con mezzi di fortuna, quelle con la carta forno, il fazzoletto di stoffa rivestito con la pellicola per gli alimenti, servono o non servono? Che dice? Attenzione, facciamo molta attenzione. Diciamo che l'idea che incoraggia la produzione di questi dispositivi fai da te, che comunque mi proteggo, certo se io sono in uno scafandro sono protetta, però se utilizziamo dei materiali che non sono adeguati, delle forme, delle strutture che non sono adeguate, rischiamo perché creiamo un senso di falsa sicurezza e quindi evitiamo di tenere degli accorgimenti che sono molto più importanti, per cui per favore non utilizziamo sistemi che non sono provati a essere protettivi, che non ci proteggono, non ci tengono al sicuro. Sono le persone asmatiche hanno dei rischi in più? Beh, diciamo che qualche rischio in più certo ce l'hanno, come tutte le persone che hanno delle patologie polmonari, magari croniche, perché chiaramente alla situazione di base di un polmone che non funziona al 100% si sovrappone quest'ulteriore malattia e quindi certamente può dare dei problemi più seri. Se queste persone devono stare molto molto attente, come tutti, ma in modo particolare. Se disinfetto le mascherine, posso riutilizzarle? È difficile. Abbiamo delle mascherine che sono di un tessuto che fra l'altro si degrada anche per l'uso, per l'umidità. Noi abbiamo dei disinfettanti che sono comunque liquidi, no? La vedo dura. Difficile da un punto di vista pratico. Professoressa, certamente. Cellulari, soldi, tessera del bancomat, come maneggiarli senza rischi? Ci chiede un ascoltatore. Sì, stiamo parlando di superfici che sono molto contaminate, così come le sono per esempio le maniglie della porta. Allora, il cellulare mio lo uso io e basta. Poi chiaramente lo posso disinfettare, possiamo usare le soluzioni alcoliche senza o anche a base di ipoclorito, tipo la mucchina, senza danneggiare il cellulare. I soldi sono già più difficili da disinfettare, i contanti, se possibile evitarlo, facciamolo. Se possiamo usare un bancomat per pagare al supermercato, meglio un contactless ancora. E sono tutti piccoli accorgimenti che però sono qualcosa in più, anche un banco, ma si può disinfettare, proprio se vogliamo. Un'altra domanda prima di salutarla: se rientro a casa, è utile che pulire la gola facendo dei gargarismi o facendo dei lavaggi nasali? Ma direi che non è utile, e allora piuttosto stare attenta se sono stata fuori, se sono stata al supermercato con la mascherina, mi lavo le mani, mi tolgo la mascherina, mi rilavo le mani, cioè sono queste le cose veramente importanti che abbiamo detto all'inizio e dobbiamo ribadire e ricordarci tutte le volte. Professoressa 5, noi ci sentiremo presto perché insieme al medici infettivologi della SIMIT accompagniamo e rispondiamo alle domande degli ascoltatori in questa finestra quotidiana in onda da lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 11. Professoressa, grazie e buona giornata. Grazie a voi altrettanto. E vorrei dare subito la parola a un grande amico della nostra trasmissione, il professor Raffaele Morelli. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, stiamo attraversando un momento difficile, ne usciremo, al momento è dura, dobbiamo resistere con grande responsabilità e forza. C'è un'emergenza sanitaria che minaccia la nostra salute ma che impatta anche fortemente sulle nostre emozioni. In questo spazio ogni giorno vogliamo anche occuparci di questa dimensione così importante. Professore, io le chiederei di mandare il suo messaggio, una sorta di fai così rivolto alle persone a casa che si misurano con l'umore dolore che sta andando sempre più verso il basso e anche con quella preoccupazione, questo pensiero del coronavirus che invade le nostre menti. Professore. Allora, come è fatta la nostra interiorità? Come è fatta? È fatta di pensieri e in questo momento il pensiero del virus c'è sale. Entra nella nostra vita. Entra nella nostra mente. Fa parte della nostra mente. E fino a qui, questo lo sappiamo tutti, però sì. C'è un altro lato della nostra mente. C'è un lato della nostra mente che sta agli antipodi dei pensieri. C'è un lato in cui noi possiamo fare le piccole cose che vanno nelle aree più profonde del cervello, per esempio, sì. Mettiti a ricamare, mettiti a fare un piatto che non hai mai fatto, mettiti a scrivere, mettiti a disegnare, mettiti a raccontare una fiaba, ai bambini, no, anche a te stesso. Metti soprattutto gli occhi chiusi e trova uno spazio per sognare, come facevamo da ragazzi o da adolescenti. Sogna un viaggio in posti sconosciuti, sogna di avere vicino la tua pianta preferita, di sentirne il profumo. Insomma, devi far riemergere il lato sognante, perché il lato sognante è un farmaco. Questo bisogna partire da questo presupposto, capisci Nicoletta? Certo. Perché mentre di là c'è il pensiero nella parte sinistra della mia mente, del virus, nella mia parte destra ci sono azioni che non siamo mentali, che non siamo abituati a usare. Perché? Perché non stiamo mai da soli, perché il silenzio ci disturba, mentre il silenzio è un farmaco per il cervello, perché parliamo troppo, perché ci lamentiamo, perché ci dimentichiamo che in noi esiste un farmaco che si chiama il sé. Vedi, noi quando dico io, dico io Raffaele, parlo in prima persona, ma c'è qualcosa di nascosto che i grandi psicanalisti chiamavano il sé. Dentro di me è nascosta una guida che sa dove portarmi. Nei momenti difficili questa guida mi fa trovare le mie passioni, perché senza passioni non possiamo vivere. Mi fa trovare lo stare con me stesso nella parte sognante, mi fa fare cose con le mani, mi fa ricamare, mi fa scrivere, disegnare, scolpire, come fanno i bambini. Ecco, è il momento questo di scoprire quest'altro lato di noi che abbiamo magari rimosso per tanto tempo. E chi è in casa, per esempio, in coppia, magari sì. In un appartamento piccolo. Ecco, no? Chiudiamo con questa raccomandazione, proprio per le coppie che si sentono un po' strette. È molto importante, siccome succede che più si sta vicini, più si sente l'insofferenza. È vero che molti dicono, poi così si fa più l'amore, magari, però molto spesso nelle coppie che hanno più tempo, cioè, scatta l'insofferenza. Ma l'insofferenza non è legata a lui o a lei, è legata al fatto che lo spazio sia ristretto, ci stiamo troppo addosso, no? Certo. E quindi quando si dà troppo addosso scatta anche l'aggressività. Allora è importantissimo, no? Se si fa una litigata, iniziarla lì e finirla lì. Ecco, mettiamo subito il punto, non la tiriamo lunga. Vero? Non la tiriamo lunga. Ecco, anche questo è un esercizio. Punto 2, mai rinvangare il passato. Ma tu 2 anni fa mi hai detto che io non volevo niente. 2 anni fa sono passati, non ci sono più. La coppia vive al momento. Le coppie non si formano come pensiamo noi ragionandoci su, si formano di volta in volta, no? Ricordati che quella donna o quell'uomo ti è piaciuto così tanto che l'hai sposato o è diventato il tuo compagno. Il suo carattere non ti piace da tanto tempo, adesso che ci stai troppo addosso il suo carattere lo sopporti meno. Allora comincio a pensare, Non l'ho fatto a sposare, fermiamo il pensiero, lo congeliamo. Fermiamo il pensiero, perché le decisioni, semmai di separazione, si prendono mai nei momenti difficili, ma semmai molto dopo. Professor Morelli, io l'aspetto la prossima settimana ancora con noi. La ringrazio per essere stato in linea con noi, vicino ma lontano ma vicino. Grazie, prof. Buona giornata. E a proposito di fare qualcosa con le mani, proprio in questi giorni in cui restiamo a casa, possiamo riprendere un po' le ricette della nostra tradizione della dieta mediterranea, così da aggiustare, calibrare un po' il nostro stile alimentare. Partiamo oggi con il nostro medicuoco, quasi cuoco, che viene a trovarci, ogni giorno ci regalerà una ricetta. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. È direttore del Centro di Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele di Milano, nonché ospite spesso della Bufala in Tavola, dottor Erzegovesi. Che cosa ci suggerisce oggi? Abbiamo un minuto di chiacchiera per rimandare poi alla ricetta che lei ha preparato per noi, che trovano sul sito, sulla pagina di Obiettivo Salute. professore, sì, dottore. Un minuto bello concentrato. Partiamo dal presupposto che il nostro sistema immunitario in questo momento è molto, viene richiesto grande impegno e quindi dobbiamo tenerlo nella massima forma possibile. Anche quello che mettiamo nel piatto può influire sul nostro sistema immunitario, quindi prima cosa cerchiamo di dare con tutte le verdure che la natura in inverno ci mette a disposizione, quindi la famiglia del cavolo, quindi sì, cavoli, broccoli, eccetera. Infatti una delle ricette sarà una zuppa di cavolo con un po' di liliacea, che è la famiglia invece della cipolla, dell'aglio, del porro. Che aiuta a mantenere la distanza l'aglio, tra l'altro. Tra l'altro l'aglio ci aiuta, in questo momento il metro lo guadagniamo sicuramente con un'abbondante quantità di aglio nel nostro pasto, ma soprattutto con tante fibre, con tanti antiossidanti, con tanto sulforafano, che è un po' la molecola superstar dei cavoli, che è potentemente antiossidante, ma soprattutto potentemente antinfiammatorio e immunostimolante. Le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco sulla pagina di Obiettivo Salute. Grazie al dottor Arzegovesi che ritorna con noi lunedì. Buona giornata. Peter Bescapè in regia, la parte tecnica, Giorgio De Luca in redazione. Un saluto dalla vostra Nico.